Il funerale ci metteva il cane, cazzo. Ha buttato una lamiera e un pezzo di tombarella per la bunga nato. E dicevo, qui giace il carissimo Pedro. Ah, tu, da funerale. No, non abbiamo la cane, ma tu sei il cavolo. A me no, non c'è più lecca. Sì, l'ho visto, vero, mi è morto, cazzo, è morto di blocco polmonite. Non so per voi, stasera mi mette il mio cuore, ma l'ho visto, è morto stamattina. È morto stamattina. Signor Gani, quindi un pinguino, anche un pinguino, è un crocio, è un mastino napoletano. Cazzo fa un capo bari, una di cindri è gigante. Che posso immaginare? Ma se devo apolettare, non è grosso attaccato. Sugar, Dunianca. Mettiamo la... Ma tagliamo la zampa che me la... Che faccio imbalsamare. Che buono, Francesco. Carità, per carità. Beh, sono, domani mattina vabbè, sono a Croia per lavori. Domani abbiamo il depuratore a Poi. E davvero, c'è. Infatti deve andare un mio collega, gli ha fatto. Che quando un ha fatto. Ho portato ci metteva dei cazzo. Ma via maduro a vedere asciugami. Se proprio maduro. E la telecchina di lui ha pegliato, sai? No, sono un bello. Io sono amico, domani mattina vado a Fontanavina, a Tanaka mi prendo il camioncino con la gruetta e ci va a fare lavori. Poi si riesce a imbracarlo o andare a vecchio, se no è dopo la faccia imbraca con la gruetta e lo puoi tanto a bozzetto. Per carità, per carità. Ma insomma, dove lo sotteriamo? In camera da letto. Ah, sto poverino con la polmonite a casa. Era anche giovane come cane, così è quasi. 6 anni ci aveva, mi stava dicendo, 6 anni. Sbarzami. Sapevo mai. Ho la puntura per poverino, Andiamo a credere, invece quanti giorni era sotterrato sotto la neve, ragazzi, nessuno lo vedia. L'auto Giovanni ha bucato un gabbo e si era un pinguino, ma c'era un cane, cazzo, buon varaccio. Per carità, per carità. Ma come non ci dura una cosa? Ma faccio era, o vedila. E me ne era, ma veramente, non sto scherzando, un bel cane. Un bel cane. Pesciù, Maria, c'è solo un capo con un rinoceronte. Grande, ma grande veramente. Di qui. Di quei mattini napoletani giganti, cazzo. Sì, cuccato è dentro un crocio. Un affare di legno l'hanno messo. Vabbè, il veterinario ha fatto la puntura per le 24 ore. Ah, su, no, qui siamo. So, su mia gascia, c'era 2 metri. Sì. Dopo di là, però. E non ha potuto fare salvato questo cane. Lui praticamente è uscito, l'ha trovato Giovanni, l'ha visto Giovanni, questo mio collega, da uscendo la neve perché cercava di uscire, ma la neve era talmente dura e lui magari non ce la faceva. E quindi quando è uscito deve essere era già. Aveva già preso troppo freddo, cazzo, mi è uscito per dire a lui costruiva la bocca, sai, ma se non portava mai c'è la bocca grande, cazzo, non ci muoveva nemmeno i labbri agghiacciati. Poverina, che peccato di cane, cavolo. Lascia aperto, io ci rido sopra, beh, ci stavamo rodendo, ma mi si girano le balle, capito? Perché cazzo, tu sai che c'è una tempesta di neve, un tempo del genere, lasci un cane fuori, cazzo, vale entrare dentro, no? O costringilo a ripararsi, mi sa dire, ma poi mai nessuno che si aggancia, che ti abbandona, dice ognuno barricato i giorni. Infatti, ma io siamo sul già. Mi pare che a Roma ma come già cazzo è molto lugano. Ma la lettera, Luia. Lettera, lui mi ha fatto Lugartello con Giovanni e altri 2 colleghi. Qui giace Poldo, ex sindaco e Croaghe. Giuseppe, vero Giuseppe? Sì, stasera eravamo decisi a salire a provare, tra tutte e tre. No, non c'è, non c'è, non c'è. E dove a Roma, è lì, sai che casino c'è, cazzo. Saranno quelli di suppagotti a tutte provarici. No, non mi pare sia a Barcellona o a Tahiti, ve ne macchetti. Beh, tu, come sta? Arrivi, da casa, contagio pure a me. Non sai come fa, come è arrivare, no? Mamma mia, guarda, ieri non ce la facevo neanche più a parlare veramente. Io vabbè Giuseppe, non ti preoccupare, quando poi riesci a catturare la tua è tutto a posto. No, non lo so, davvero. Non lo so. Perché io sono lì a 50 metri. Mentre una mattina sono lì attaccato a loro. E non c'è nessuno. Non c'è nessuno nella piazza. Tutto già arrivato. Ho trovato cosa stamattina morto il cane. Tutto. Il mio collega dovrebbe pulire il giardino, te l'ho detto, l'ha trovato lì il mio collega, non è mio collega, era con noi, ha lavorato con noi, poi siccome era tempo determinato è scaduto il contratto, allora quella persona lì per farlo lavorare l'ha preso come un fattore da lui, capito? Era contratto a termine, no? Per 3 mesi. L'ha trovato lui stamattina, proprio all'ingresso del cancello. Infatti al primo momento non si è accorto quando è entrato. Perché l'ha visto sdraiato, diciamo, fra cucca e lunga. Ha detto pollo, pollo, te pollo, è diventato pollo. E pollo è lungo. Ma dai, vabbè, pazienza, dai. Purtroppo. No, bravo, fate vedere, è rimasto un po'. Mi è piaciuto moltissimo. No, ma bravissimo quel cane, cazzo di bravo. Bravo, bravo. Molto bravo, veramente. Certo sono cani molto pericolosi perché cazzo fa gran fa. A giovane ha mangiato tutti i vari. Ma giochemi così, gli quando ti magrevito, ma vedi cazzo di grido. Ti tagrisce su un cane che ti deve sacca un gabbo. Giocando. Mi ha mangiato tutto questo in vari. E l'ha un po' intaccato il polpaccio, ma niente di particolare. Però è un cane molto bello, mi aggane. Io non l'ho mai visto, se mi ricordo il mattino, ce l'aveva un amico mio fratello, ma non era così, forse era un mattino nano, che è più gigante, cazzo. A 2 metri che rido in terra. Sì, è stato con i massimi quelli di Italia Grossa, e beh c'è stato, e beh ovvio, e a voi, la lunghezza c'è tutta, ci sta tutta. Sì, mi sta spinando il telefono. Si manca il lecco adesso, allora bisogna andare a ciupa ciupa lecca lecca. Sì, ma volevo cazzo a pompone a lecca. Se ti intendi, se lo cazzo come un buco a grigliola. Sì, dice, noi siamo bene, però dispiace, cazzo, è un bel cane a lecco, eh. Beh, oh, yeah. Va, per carità. E non sai cos'è, Giuseppe, ma devi fare tutto da me, e come ti va? E domani dice che faccio il buco, non so, se ne facciamo pure quel cazzo di buco, boh. Ah, dai, vediamo a piazzarla, non c'è problema. Oh, yeah. La ragazza di Alessio, grazie. sembra che non sia più forte, sta uscendo più basso. No, varia anche la posizione, Giuseppe, quella bisogna di variare. Deve staccarla, ha bisogno di radiazione, capito? L'antenna è fatta bene, perché è fatta bene, però ha bisogno di radiazione, capito? Deve essere libera, e se no non ti radia bene. Ma io adesso gli ho messa la traccia, io gli ho messa la mattarella, gli ho messa sopra nel buco della cosa, no? Dove scende l'acqua, hai capito? Lì non c'è niente, e gli ho infilata lì, capito? Vedi, vuole anche distanziata, normale, non sta arrabbiando bene. Ma no, vedrai, quando la piazza si radia bene la tenda. Ma lui però guarda come aveva prima di dartela. Cos'è anche, ma tu? L'aveva provata lui a casa prima di darla a te l'antenna. Certo che l'ha provata, accanto lì se arrivava abbastanza forte, anche a che ora se arrivava forte, quello. Allora già va bene. Sì, ciupi ciupi, rientra così. A telefono, Flav. Pronto, chi parla? Il sindaco di Bloare. Solo ma io se non sappiamo tanto che hai perso la raga, ti sei offesa, hai capito? A tu ti sei offesa? Quella persona là ti ha fatto quello che voleva entrare lì, ti ho preso, lo sai? Preso? Ho preso, se ne tagli, cosa vuol dire? Adesso gli ha fatto offesa e cambia peso. Sembra c'è una parte buona, cosa vuol dire? Non ho capito, era per vorrei di fare grazie nostro, non ti ho preso. Certo, ma non si può più entrare in questo canale. Chiama canale allora. Solo sì, era per voi diritta. Infatti. Se lo vogliamo. Cazzate se ne dicono in tutte le maniere. Ma bene. Vabbè, Giuseppe, io ne approfitto, faccio una carichetta e ce la riascoltiamo a più dopo. Claudia, se stai ascoltando, a dopo, sentire, se no, ritirati super salutato. Buona carica, Mattu, ci sentiamo dopo, tanto rimango in ascolto, io sempre qua in ascolto. Capo Giuseppe, dai, a dopo che è carico. Ok. Va bene, ciao. Attenzione, Gianni, Capri 2, secondo il canale 10, cambio. Attenzione, Gianni, Capri 2, secondo il quale, dalla nord di Sardegna, cambio. Attenzione, Gianni, Capri 2, secondo il quale. Avanti! Dai, che lo credo! siete, ci sentiamo dopo, vado a mangiare un boccone già famiglio. Io sono rientrato poco fa. Comunque no, Antonio, io glielo ho già detto a Giuseppe, io ascolto Santiago 7. Mi pare che il segnale più o meno era così. La radio la riscontro un pochino più bassa, poi sai, bisogna vedere. Adesso sto usando 4.30, magari dopo inverto la radio, vediamo se va meglio o peggio, ma lo ascolto comunque benissimo, non c'è problema. Ci sentiamo dopo ragazzi, dai, che vado a cenare, K. Buona carica, buon titolato. Oh, Ale. Ok, non c'è problema, allora. Io ascolto un pochettino di più poco fa, adesso si è abbassato. Evidentemente ho ascoltato un pochettino l'antenna. Comunque, Giuseppe. La settimana domani, adesso sei provvisore, oggi quando appoggi così non c'hai niente, capito? Ma se il sistema è bene che esci meglio. Vabbè, adesso la lascio così, provvisoriamente, vediamo un po', hai capito? Io adesso ti sento e ti capisco, detto, prima invece non ti capivo per niente, figurati. Quindi è migliorato un bel po'. Vabbè, dai. Diciamo, va bene, dai, già va bene, domani lo vediamo, no? Ma domani ha messo pioggia, Alessio. Vabbè, infatti che esci, infatti c'è quello, che funzioni. Poi domani mattina si sistema come si deve, con panetto, graffiato, ben fatto e una cosa come si deve. Ma domani ha messo pioggia, come facciamo? Perché non c'è un suo problema. Ci mancherebbe. Passo la cena, ti chiamo dopo Giuseppe, lo farò mezz'oretta, vieni qua e non ti preoccupare. Vabbè dai, è tanto che rimango qua in codice, frequenza, dai, già sono in ascolto io. Ok, vabbè. Buona carica. Yeah, it's just a little bit of a blow out. detto oggi le hanno fatto un giro con le colonne, ho detto non ci fai mai la barra pesante mi. Cappa Domenico, vai. Va bene Domenico, cappa, fate la buona, ciao ciao. Un attimo Giuseppe, la riprendo subito. Vai, vai, vai. Fatto già cenato, beh, a te. Ma no, non ho cenato, stavo iniziando. Allora ti faccio cenare tranquillo, dai, non c'è problema, ma come viene in ascolto, va. Sì, a dopo, dai, se a dopo. Ciao, va. Mamma mia, cara, te a correre fino all'ultimo. visto un ramo distrutto a casa. Ci posso credere, Antonio, ci posso credere perché è tosto mi. Come lavoro è tosto e tutta la forza di braccia e di schiena al vostro. Prego, giù il 21. Ah, buonasera. Mi che vuole portare i mezzi che si muovono. In due prendete un culo a fare proprio a tana di grillo. Avanti lei, grazie. Ehi, buonasera a tutti e due. Buonasera amico da qualche parte Leoncino, Gappa gappa, ciao Leoncino, da questa parte sempre Giuseppe che ti super cordializza. Gappa gappa. Sì, sono IBM Giuseppe. Sto passando dalle tue parti, con la zona tua, no? Eia, me ne sono accorto, te ne vuoi andare da sotto casa però, boh? Vabbè, sto passando qua, sono in via Pascoli, capito, sta andando a prendermi il fuogero dal Bar Daniele e poi rientro lì, capito? È positivo, ecco perché questo 9.35, 9.40 qui a casa. Cappa, ma qua c'è la patrulla dei carabinieri, se è successo qualcosa, o qualche rapina, No, negativo, e qui nella piazzetta del Sacro Cuore una persona è venuta a mancare a casa. Ah, ecco. No, ma c'era la pattuglia in via Pascoli, all'angolo dove c'era la farmacia, te la ricordi, lì all'angolo? Cava, sì. E lì c'era la pattuglia dei carabinieri, non so perché. Oh, Leonci, già ci vuole comunque, mi, già ci vuole, ogni tanto c'è bello vederti. Sarebbe ora, no? Adesso andiamo a piacere a Bardoniere, le sigarette e poi rientriamo tutto quanto a QTH. Cava, bene, meda. E riprendi tu per Leoncino, bombolino. Cappa. Ritornare senza, ma non è fuma più, fai un mente a me. Lampa di tutta lo comodo, a Roma con bici di nati, buona la benzina. E lo so, ma non ho altro. Anche tu hai ragione, però solo che non ci riesco. Cappa. Pure io ce l'avevo quel viziaccio. Avevo mandato tutta la forza. Lo so, ma sai, la nostalgia di questa cazzo di sigarette, cosa vuoi fare? Non ho capito, boh. Cosa? Oh, io no, non ne ho più toccato, da chi mi sono gabbizzato che era un po' lunga la cosa, adesso fa una cosa, buttaci tutto, vai. Eia. Vabbè, è entrato Gianni, no? Sono. Ma mi senti? Forse è andato a fare qualcosa. Cava. Facciamo la chiamata sul 21 per il doppio room e sei in ascolto. Attenzione, Gianni, doppio room. Se mi ascolti qua, cambia sul 21. Va bene che stia caricando anche. Sicuramente, non ce la faccio trovare altra cosa. Le pattuglie dei carabinieri, cazzo, anche qua a Tattola c'è una pattuglia dei carabinieri, bubu! Alla Benemeda! Ci conti bianco per me, anche per la benemersia, eccetera! Avanti, bombolino! Aia, mi sono fatto uno strappo! Mi sono fatto! Adesso! Muovendomi, ho fatto uno scatto brusco! Gente del muso! Movimenti a freddo, quelli sono i più brutti. Già ho fatto la mattina, prima di come si dice, di mettermi a scaricare, cerco di scaldarmi. Cappa, e fai bene. Stai bene, Antù, perché i movimenti fatti coi poi gli sforzi, soprattutto fatti a freddo, ma la schinciola. Che cappa. Ma grazie a Dio non ho mai sofferto di mal di schiena, di niente. Qualche dolore al fianco. È positivo, lì già sei bello allenato, Antù, prendendo quelle bestie lì, alza e para, ugna. Mi scappa. Io non ne ho problemi. Mi porto in tutti i piani, le porto anche. Poi c'è Baglienti che ha un quarto piano non arricca, un quinto piano non arricca. E già ti ho visto anche l'altro giorno, che già lo sai il fatto tuo. Io se ve lo so, lo faccio da quando ero bambino, da quando ero ragazzino proprio. E l'ho fatto da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 26, si può immaginare. Kappa. Qualcuno già l'hai consegnato allora, tu. Mai ho imparato. Dopo 2 mesi sapevo già lavorare. È positivo. Adesso conosci tutti i miracoli del tuo mestiere. Ma è giusto che sia così, eh? Io non credo, via. Io una volta mi ha sbagliato, una parte, una all'altra, ho giocato a tasso per un quarto piede. Al quarto piano con 2 bombole da 15. Si tira le braccia, eh. Però già, si è tirato. Cavolo, quelle da 15 la sono presa alla luce. Scappa. Sì, altro che dice da 15. Una volta sta già stata sopra una da 25 al quinto piano. Cavolo, quelle sono, mamma mia cara, cavolo. Ma non sono pericolose quelle grandi. Vabbè, sono per caldaia, insomma. Era senza ascensore, era di una persona che non ne potevo fare a me. Allora, se c'è da aiutare, ma puta, dai io. È sbagliata una tariffa di giocato per un quinto piano. E quanto tu chi pesa? Cavolo, alla grande. Lì si vede proprio quando una persona è allenata, tanto alla grande. Ma non è che te lo sto dicendo così, no, anche lo posso avere, no, non è che lo posso apponere, no. Ci credo, altro ci mancherebbe altro, cavolo. Ma poi ho visto che già lo conosci il tuo mestiere e non te ne insegna nessuno come fare e come prenderle le bombole. Ah, giovi con la cadica, tiri gli occhi così. Le piccoline sono cioccolate. Ehi, cavolo, cioccolati, si già sembra così, ma e quando stai tutto il giorno già si sentono anche quelli. Sì, se me li gioco, mentre è nuda. Oh, vedi, proprio, quella è la cosa minima. Se più mani, un poco più. Molte volte sai cosa mi succede. Cioè, avanti una spuntata. Ma come ne accorgo io prendendo le bombole per i volte? Cioè, me lo devo proprio guardare, perché io che piglio, magari una la ordina da 15, io piglio questa da 25. Cavolo, e non la buona. Ma quelle lì per la cucina vanno bene da 25, o c'hanno troppa pressione dentro per la cucina? Ma la pressione non c'entra nulla, no, perché c'è il regolatore che te lo regola. Perché non ci sta, è grande. Devi mettere questo a un bombolo da mettere fuori. E poi c'è quell'altra, c'è la più grande di tutti, che scarichiamo alla spaghetteria giù, quella 62, 140 kg, chissà pesa, me ne la scarico da solo. Cavolo, minchia cazzo, mamma mia. Ma non voglio nessuno mettermi, tanto secondo come ti viene la lampada ti fanno più male che altro. Quindi me le arrangio io, molte volte scende lui, però non chiama a me che andai appena a maldicchina. E capa che sono dentro, non c'è niente da fare. Prendere sì e scendere dalla moto, se no se ne vuoi c'è vita già vita. Già ci credo, cazzo, ti scappa di mano quella con la bestia del genere, quale l'ho finata, dopo ti trocca anche le gambe. Sì, se non la sei svegliata, sapete, non tutta, per tutti. E si conferma, e ferma Antonio Bombolino, conferma. O siamo andati a Napoli, e se l'altro giorno cazzo eravamo a mare. Già lo so, già. Ma onde pesci vecchio? Leoncino dice che è andata a prendersi le cicche cicche. Che fa? Eci! Le ciliegine. Oia, ma non può venire più fumando, mamma mia, uno stipendio ci vuole, solo per le sigarette. Se la bottiglia sotto la gamba, io ci sono riuscito, ormai quando mi dicono che non ci riesce, non ci credo. Non ci credo perché io ce l'ho fatta. Kappa, già ho visto. Io, grazie a Dio, sono 8 anni, Antonio, e proprio, guarda, non me ne può fregare di meno. Il primo periodo e scende il gappo, così è. Beh, perché oramai si è abituato a fare quei gesti, quelle cose, sai, anche in camion, guidando, andava a cercare il coso, a cercare l'accendino, no? E invece accendino e sigarette in loco. Oh, conviene lampare tutto e via. Oh, là. Ma i picchi positivi sono. E si conferma, qui è tutto Roger. Sei un Maria. Maria negativo, ma così muovi. Bombolo. Antonio. Antonio, ti sta chiamando Leoncino. Avanti, Leoncino. Sono qua, zona X, capito? Zona X. Non sento più, no, Giuseppe. Non ti senti più, Leoncino, come mai? Sono in zona disturbata, capito? Cava. Beh. Ha detto che è in zona disturbata, zona X. Così è. No, io lo sento bene, lo sento bene. Grazie, con la mano va, lo senti bene. Cappa. Cappa. Siamo la mano va. Ti stavo dicendo, è proprio torra la pesce. Travagliente. Sono gente che sa veramente lavorare. Ma ve ne so, gnogno. Si conferma. Per fare quel lavoro lì anche stabilimento ci vuole molta manualità, che bisogna essere molto, bisogna avere molta manualità. Certo, sono perfettamente d'accordo. Ho sentito qualcuno sotto, avanti. Ho detto se mi senti bene adesso. Poi che mi sento io sì. Voglio vedere, se non mi sentivi, boh. Non ti sentivo perché eri qualche posto, inizio. Ero lì, a zona Calamarco, quella zona lì. Mamma mia. Hai capito, sono andato a prendere il fuoco, a Bardagliere, in Piazza Tola e stavo facendo la questione. Poi fra un quarto d'ora ripreso da casa, dai. Averci, vai, non c'è problema. Qua ricarica su che andiamo metti da tutta quanta su Antonio che si rulla, fai rullare l'apparecchio. Gava va, e dove si sente? Adesso c'è quella uscita che viene da noi, sta cercando tutti la R. La PR per trasportare merci pericolose. Per trasportare quella roba lì, se c'era qualcuno, ma gente seria, no? Gente così, no? Ma che se hanno provato anche robizzini così, solo roba andata a carregare, fa carreggiare, 2 dì ce ne sono andate. Me lo posso immaginare, Antonio, cazzo, oramai era ieri, fuori di nato e non sapeva nulla. scappa, eh? Che te ne pesa chi se lo mangiano, ad esempio. K, dove caricano giù a Cagliari? A cosa? A Vododora, a Monterrà. Ah, ho capito, sì, grazie. Ci sono passato anche stasera a fianco, figurati. E lì caricano, cioè, stabilimento. E arriva pure l'articolato da Cagliari. Cazzo, ma la gente è incredibile. Tutto vanno così a scendere da lui, stavete con i manzano, basta il pagato di ricarica a Cristo. Egli Anto, egli hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. La gente vuole i soldi senza far niente e se è possibile rimanere a casa, passi tu e glieli porti i soldi. Hai capito? Da poi cazzo si lamentano, però se li vedi seduti al bar, crocro. Ma pigliato uno, mamma mia, solo a vedere lo mangiano mi si girava nelle spalle, cioè, in una maniera incredibile, diventavo nervoso, una faccia di culo che non ti dico bene, che non ti dico qua. Ogni volta mi mattina è fatto da quello, ci ha avuto, adesso non fai giusto, sono andato a toccare la Iana e non fai giusto più. Cazzo, figurati, poi, ma poi non c'è più serietà come c'era prima nel lavoro. Prima uno se prendeva un impegno, quello era, ma stiamo scherzando. E io allora, Anto, che cosa avrei dovuto dire? Io sono 25 anni che mi sto alzando presto la mattina, mi sto girando mezzo mondo, eppure lo faccio. Non so, se capita il viaggio a sta sopra devi farlo. Se capita il viaggio in continente non ti puoi rifiutare. Ma cazzo è te un mazzo. Se vogliono i soldi facili, caro Antonio, non hai capito niente, vuoi i soldi facili, è nel trabacco, e dunque quasi ti puoi buttare in un pregio. Allora, già lo so già. Infatti io non la sopporto quella gente, Giuse. Oh, Leonci. Io te l'appoggio. Che, niente, voi, lì di là, c'è da travagliare, c'è da bere le nostre, però non va bene così, perché i soldi bisogna sudarseli, hai capito, bisogna sudarseli tutto quanto. Ma se erano fatto come altri figli ricchi, Giuseppe, c'era qualcosa, a pari picco, come si usava una volta, bene, la passata la mania. Eia Leonci, e si conferma, e abbiamo fatto anche quello, e siamo ancora vivi, mannaggia, e siamo ancora vivi, forse perché c'era più, come posso dire, c'erano anche più valori, avevamo più valori, c'era anche più rispetto per il lavoro e per tutto. Ma va, adesso, entrano adesso e domani già ti stanno mandando a quel paese che non ci vogliono più andare a lavorare, perché solo alzarsi dal letto ti dicono, ma tu sei matto. Buonasera, amico, comunque. Perché? Perché c'è... Buonasera, pompo. Perché? Perché c'è troppa... Cioè, ai ragazzi non gli hanno più insegnato come facevano allora, che andavano anche da ragazzini a lavorare dentro le officine a imparare. Infatti a mano si sa ne manco più a lasciare i voti, non se ne fa più nulla che questi ragazzi di adesso. Ci sono in pochi quelli che sanno lavorare e fare le cose. Non sanno fare più niente, vuole pensare solamente a fare di bere a culo, a girare le palle di notte e faccia arrivare, cioè, e a far casino, mi chi già la ne va bene. E si conferma tutto. Se non sbaglio mi è sembrato di aver sentito l'amico Pomponio che rilancia subito tutto. Ciao, buonasera, abbiamo ascoltato un po' tanto, c'era una vita che ti sento. Buonasera Pompo, cavolo, ben sentito, cordialità e una stretta di mano, Antonè, caspita, ne avevo anch'io voglia di sentirti, quanti mesi sono passati? La mano, una pala, una di quelle pala grandi ci abbiamo, per i tuncici, tutti e due, non so più visto né sentito, questo non mi parla più a me. No, assolutamente, Antonio, caspita, massimo rispetto sempre per le persone che si sono comportate bene con me, e tu sei una di quelle, massimo rispetto. io ti ringrazio e abbasso il cappello e ce l'ha quello. Cava cava, noi stavamo ciaramitando di lavoro mio Antonino, e poi ricollegandomi a quello che stava dicendo Bombolino, prova a chiedere al meccanico che hai a fianco di me, a vedere se ti dice qualcosa. Ecco. È registrato il preco sul 21, il doppio rum e cava. Buonasera a tutti e cordialità, Gianni doppio rum. Sarebbe sentito e grazie per quella questione. Ah, figurati, ciao Antu, benvenuto anche a te. Ci abbiamo in rotta, che io non ho fatto manco ascolto perché ero con una persona al computer, ma tu hai ascoltato sul 21, pensavo non ci fosse nessuno e non sono entrato, allora sono venuto subito. Cava cava, abbiamo Antonio Bombo, il sottoscritto, Antonello Pomponio e Leoncino che ti stava chiamando da poc'anzi. Non so se Leoncino è ancora qui su questo magico canale, vero? Sulla frequenza modulata, è vero, no, siamo in AM. Avanti Leoncino per il doppio room, se ci sei. Ciao Gianni, ben ascoltato dopo tanto tempo, Ciao Leonci, io già ti ascolto sempre, ti ho ascoltato anche ieri, stasera, insomma ti ascolto sempre, io sono sempre con le orecchie, con le orecchie lunghe. Va bene Leonci, io ti stavo ascoltando anche ieri, però non avevo voluto rientrare, cava cava. Stavo facendo cosa al computer, quindi non potevo entrare. Antonio, avanti. Allora, lavoro. Dai, riprendo io da casa dopo, dai. Chiudo la macchina e sto salendo, riprendo subito, là. 5 minuti di bianco per me. Cappa. Dai, buona questi greca, Leonci. Avanti il buon Giuseppe. Cosa c'è da dirci di bello? Cava cava, no, anch'io ringrazio Gianni per quella questione là, ben accetto, e niente, da dire che cosa si può dire già, che una bella chiacchierata, sana chiacchierata qui su questo magico canale, non è vero, e ti rilancio subito l'amico Pomponio che sta di sopra di noi, su in quel di Serra Secca, cava cava. Anzi, è tuo padre che è fidanzato, non ho più sentito. Mi manca parecchio la verità, Non ho più inteso, non hai più sentito, non hai più entrato con me. Ma vabbè, che io vorrei che ti appena con me prima. Comunque, che fidanzato? Sparito. E allora a me ha chiesto che fine ha fatto tuo padre, Pomponio, che non l'ha più sentito. Ah, giappa. E l'apparato è sempre facendo cosa, purtroppo abbiamo una situazione un po' così e quindi è sempre l'apparato. Comunque sia, mi credo di dirmi di tutto quello che c'è stato, quello che c'era prima, meglio entrare tranquilli pure a tutti i dini, niente al resto. Tu prendi o Giuseppe? Cappa cappa, eia, riprendo io, attenzione Vela se mi senti balla fuori, ne? Caspita, facciamo una chiacchieratina, se trovi 2 minuti di tempo fa non piacere ma ci fa super piacere. E niente, riprendo io e mi hai sentito quello che ti ho detto poco fa, a proposito del discorso che avevamo, Anto, prova a chiedere a Tonino se sa qualcosa di me da ragazzino. Io già lo so, già me l'ha detto, già so tutto. Quindi hai visto, ci vuole solo buona volontà facendo le cose, Anto, a che adesso, diciamocela molto chiaramente, la gente, ragazzi, è mandrona e boh, perché può essere andare a zappare, andare a fare quello che vuoi, la gente non ci va perché si stanca, punto e basta. poi però non sanno fare niente nella vita, sono solo rompere le spalle al brusco. Ma tu? Ehi, positivo di oggi. Ma Giuseppe? Sì, vieni avanti, ti sento, ti copio bene. Già, me lo dai in controllo come ci arrivo dalle tue coordinate? Sì, Santiago 9 più 10 e Radio 5. Già va bene, dai. Già va bene, no, perché ho piazzato l'antenna famosa e volevo vedere come sta uscendo da casa, dai. Tutto K, tutto Roger in questa postazione. Riprendete il buio con il discorso, dai. Ma Mariella e Papa per la mamma che siamo. Sì, a tu. Se l'hai accordata per la banda che siamo. Siamo per la banda che siamo. Se l'hai accordata per la 27. L'ho portata, l'ho detto, l'ho fatto quella modifica di fargli dare un buon caso, l'ho trasformata al 27, capito? Quando hai fatto lei aggiunta, l'hai allora io l'abbiamo fatta assieme a Alessio Pomponio questa cosa, l'abbiamo trasformata e abbiamo messo dei radiali più lunghi, capito? Cappa. In frequenza Alessio te lo spiega lui come è, capito? Se è ancora in frequenza. E Giuseppe, Pomponio. Ho detto riprendete, dai. Oh Giuseppe, non tu riprendi, dai, sono qua io. Va, Pomponio! Dimmi. Allora, cosa stai facendo? Adesso niente ancora, non sto facendo niente. Non ci sono femmine qui, sono solamente maschi e basta, non posso farmi nulla. Ma che pagabba. All'energia stai dicendo? Ma come sento io ancora? Ciao Alessio! Ciao Gianni! Toc, la febbre è passata? Tutto a posto, grazie a Dio! Meno male! E cosa hai fatto, qualche cura di birra? No, l'altro giorno ho fatto una cura di vino e ti sto dicendo che sono stato un giorno e mezzo a letto perché non sapevo neanche a calzarmi! Sì, ma ti debito un mezzo buccione, però, c'è sta gentissimo. Appunto. Vabbè, lo sono io, la verità, anche mio fratello. Perché avevo diviso in due. E quindi era veramente buono, succedeva quella cosa qua, però frizzante, buono. Quando stavo dopo non ti fa proprio niente, ma dopo, mamma mia. Roba leggera, c'è uno da fare. Avanti Giuseppe, te ne immagini questo Alessio? È piccolino ma vino ne contiene. Cavagava. Antoni, ascolta Giuseppe. Dimmi Giuseppe, dimmi. Ascolta, quando è che ci rilocchiamo di nuovo assieme in ascensore? Ehi, quando vuoi, guarda. Mi piglio 5-6 birrotti e facciamo l'amore subito con i birrotti. Poi quando ci chiamano, ci presentiamo la birra in mano, dico già vuota, ce lo devi pagare. Chi è quello che si è cagato di più l'ascensore? Io no. Cavagava, guarda, l'unico sistemato bene era Antonello, perché ha due e va. Sei birre erano, vero Antonio? Due confezioni da tre, se non mi ricordo male. Subire, esatto, sì. Quindi ho già, Antonello ha detto per me, dice possiamo fare anche notte qui dentro, che noi poteva passare manco per l'anticamera delle scatole, figurati. Quindi quanti eravate in tre? Ah, di più eravamo in quattro, mi sembra, c'era Gianni, poi c'era... mi sembrava un 4-5 in ascensore. Forse c'era Stefano. C'era proprio Stefano, vabbè. Guarda, c'era Stefano, c'era Capri 2, c'ero io e c'era Antonello. Appagato. vabbè, e posso immaginare che hai visto che sei caduto sotto. Chiappa. E ora mi si è fermato l'altro giorno. Sono stato quasi 20 minuti nel montacarichi della ditta, bloccato. Avevo le chiavi del negozio, aprivo, scaricavo e poi me ne andavo. Dovevo portare della roba che c'era in eccedenza giù, il magazzino. Ho preso il montacarichi e mi si è bloccato. Non c'era nessuno perché ho aperto io. Non potevo chiamare, non potevo fare nulla, alla fine mi sono ricordato che avevo il cellulare, ho preso il cellulare e ho chiamato i vigili del fuoco, mi hanno detto che di avere pazienza, che era mancata la luce, che c'erano un sacco di palazzi, così c'era gente che chiuse un ascensore, un casino. Quando sono giunti mi hanno acciappato tutto spogliato, solo i pantaloni avevo. Non devo neanche per andarlo. Se non c'erano così d'aria, non c'erano prese d'aria lì, a poco non credo, non credo di coso, perché non si può respirare. È logico quello. A me mi è successo l'altro giorno. Tutto bagnato, e dove ti è successo? È successo in un condominio lì in via, nella via dove sono io stesso, al numero 14. Dove c'era il cardiologo lì. Allora mi si è fermato a metà, mi si è fermato per fortuna. Allora ci ho entrato la mano e me lo sono aperto, ci sono riuscito. Ma era atomi, era di tutto un brinco. Beh, ci credo. Meno male che è aperto, perché quando non è al piano non dovrebbe aprire. Deve essere che non è nemmeno controllato, ma il cardiologo c'è ancora, mi ha detto. Ce n'è un altro, quello che è morto era praticamente il cognato di quello che abita di fronte a me. Già lo so, no, non hai capito, no, già, me la sono aperto io perché so dove, se tutto il cugino non si apre l'ascensore, me la sono aperto io perché so dove mettere le mani, hai capito, perché mi è già successo. E fammelo vedere anche a me, che non si sa mai, e mi blocco qualche gioco. Capo, in certi ascensori si fa in una certa maniera. Se trovi quello che si chiudono le ante, così, quello non lo so. Ma quello dove si chiude la porta e poi le ante, separatamente, io ce lo so aprire. Ah, quelli vecchi da sesce. E a me quello che ne fanno più paura di ascensori sono quelli che hanno quella rete, che si vede tutto canto, lavora, un casino. Mi fanno paura perché avevo visto un film, da quella volta mi è rimasto impresso, questo qui si è impigliato la catenina, ha chiamato l'ascensore, uno ha chiamato l'ascensore e gli ha tagliato la testa. No, la mara. Poi si spacca quando fa finta, prima di tagliarti la testa si spacca, ma non è tanto delicato quello. No, quelli no, quelli a me piacciono, non ci va a notte, perché quelli mi sento più sicuro perché li so aprire. Devi mettere la mano dentro e dargli il colpo a tirare così. A me invece piacciono quelli che ci sono qua in via Bugino. Quali sono questi via Bugino? Tutto a vetri, e tutto a vetri, e vedi le cosce delle signorine. Ah, sei nuova. Ecco perché ti piace quel via Bugino. E già, ci sono quei tre palazzi e tutti e tre palazzi hanno l'ascensore che è come quella che c'è alla piazzetta, amico, con i vetri. Ah, se ti piatti lì sotto facendo finta di aspettare il tram. Non guardare, non toccare, cosa da soffrire, Giuseppe. E pazienza. Avanti, Alice. Come un maniaco, guarda, peggio di me. Si vede qua vicino, invece c'è gli accabbonati. C'è un psiche, la palestra c'è, quindi tutti si mettono mezzo nude, si vede tutto, si vede, quindi io faccio il maniaco. Antonino, ma io ripeto sempre una cosa che ho sempre detto, e non vorrei essere ripetitivo, però io dico sempre che anche l'occhio vuole la sua parte. L'occhio, quello di sotto vuole l'occhio, non quello di sopra, l'occhio di sotto lo vuole. È sempre così, è sempre detto, cosa devo fare io solo, te lo leggo quando mi taglia. Poi c'è stato un medico l'altro giorno al televisore che ha detto che l'occhio deve fare la ginnastica, come tutte le altre parti del corpo deve fare ginnastica. Sì, va bene, già, ginnastica fino a un certo punto, ma secondo la FIFA che passa cominciano a uscirti negli occhi, cavolo, quella è, quella è una maratona. Alto Pomponio. E Pierino cosa faceva? Si metteva sotto la gratta e guardava sopra, quando passavano le ragazze guardava le mutande. Cava cava. Antonello Pomponio, ma è quella che guardavamo col binocolo da casa tua, sempre. C'è sempre quella, non ti preoccupare. E anche buona. E si conferma, caro. Io stavo prendendo la via della perdizione quando stavo frequentando lì su. Ah, scopo tutti gli scopi, si vede ancora meglio. Chi è che si è castigato? Avete parlato in due. E c'è anche Leoncini. Leoncini. Eia, io sono sempre in ascolto. Giuseppe, io sono sempre ascolto. Ne abbiamo visto tre stasera con Alessio, una più buona dell'altra, Giuseppe. Ma Alessio Pomponio? Io eravamo tutte e tre assieme, io, lui e Qualchetto, Antonio. Cazzo, ma ne abbiamo visto certe tipe, cazzo, che si sono fatti a tutte e tre il bastone, la tamariera dritto. Cava cava, vedi che ho ragione io, che anche l'occhio vuole la sua parte. Chi glielo ha letto? Alessio. Dimmi. Sì, quelle tre tipe sono passate. Bastardo, diglielo. Non sono solo io devo raccontare le storie, diglielo tu. Ti sento basso adesso, boh. Non so che cavolo è combinato, comunque si sente ben basso. Beh, lo sento bene lì. Io lo sento basso. Secondo me non c'è il piede saldato, se no sarà diavolo combinato. Comunque l'antenna è a posto adesso. E ho fatto una bugola che ho fatto, quindi qualcosa c'è che non va. Vabbè, intanto non è impattata come staffa a muro, quindi solamente provvisore che sarà una poggiata, comunque sia, Ho capito. Oh già, cos'hai adesso Alessio? Che ti ha piazzato la bumera. Che comunque sia, non l'ha piazzata con le staffe al muro ancora e non si sa dove l'è piazzata, perché ti sente più basso. E come era prima, io dire che come l'ho piazzata io, ha attaccata quella cosa là e. Come l'ho piazzata è capito, è rimasta. Ho detto che come è piazzata è rimasta. L'ha messa come era prima. Vabbè, è buca che l'ha trovata stasera, guarda. Capito la china allora che non esce. Bene, sinceramente, comunque sia. Se no sentiamo un pochettino. Capito, già, fammi la ponte tu adesso, va. Aspetta, stavo dicendo che adesso, con quell'antenna, messa così com'è, provvisoria, no? Il salto di uno va bene, magari ha messo più un pochettino quello che è. Comunque sia, adesso va a sistemiamo e pulisce meglio. Con il baracchino come si vede, però non con quel baracchino che c'è adesso. Hai sentito cosa ha detto Giuseppe? No, ho sentito. Cos'è che ha detto? Ripeti. è messa così posticcia, con l'antenna non rende come dovrebbe, domani la sistemate meglio. Beh, oh, non lo so perché, oh, guarda, non lo so, adesso vedo un po' di muoverla nuovamente quella cosa, boh, non lo so, boh. Ha detto che ci vuole un baracchino come si deve. Oh, Antonello Pomponio, mi dai un controllino nella tua postazione al buon Giuseppe? Vedere un pochino se tutto va a pagare. 9:10 sei qua. E io lì, quanto so? Tu sei più basso. Basso so. Sì, non so se neanche ti vedevo prima, la verità. Sei 8:30 quasi 9. Prova a vedere il segnale lì come sono. Ora? Fallo saldare, lo sai che tu già. Collegati bene. Adesso vado un po' questa volata, moglie, dall'antenna, non lo so. adesso se la tolgo nuovamente, vediamo un poco, dai. Poco fa lo sentivo, se lo sento più, non ho toccato niente, Secondo me non ci arrivi abbastanza in quella zona, in quel punto suo. Non tanto la zona, ma in quel punto suo non ci arrivi e non c'è Cristo, ci vuole un'antenna come si deve. Ma secondo me trovo un cavo, un piede, quello che è, chissà cosa diamo la combinata. Certo. Ho fatto tante di prove, molte volte, guarda, per arrivarci molte volte bisogna attaccare, perché non si può pretendere con un'antenna piccola, molte volte di, secondo come è posizionata, secondo che tipo di antenna è, no, non ci si può arrivare da un liscio normalmente, quindi bisogna aggiustarsi per forza. A meno che non la metti in un posto un pochettino migliore, allora potrebbe cambiare. Ah, riprendi Giuseppe. Oh, Leonci. È una scena, guarda, è una scena questo cristiano. Sta sempre toccando, tanto, non è possibile, guarda, fagli una cosa in mano. Vedi, guarda, una tela in mano messa sopra il tetto, vedo che non ci arrivi nemmeno, guarda. Perché non è possibile, sta sempre a mettere le mani in mezzo, più la guina tutta. Eccomi qua, sono rientrato. Ho mangiato un panino stasera, ma mi sto bevendo, guarda, un coso di acqua, un bacino di acqua mi sto bevendo. Tanto venire a pigiare. Non è che c'era sale, no, qui ce n'era un panino, qui ce n'era una bomba a mano. Adesso si è mangiato di quei panini speciali. Ehi, di quella roba strana, ma vera di tutte e di più. Cavolo, sto bevendo, cazzo, ma mamma mia. Lo so. Uia, prego. Bisogna mangiarne tante, sennò si brucia, si accende la sfintere. Cava, dopo bisogna camminare a casa con lo stoppo acceso. Ah, soprattutto se metti quella cosa di tabacco, mamma mia. No, mamma mia, il tabacco è micidiale. No, stasera ho voluto gustare questo kebab. Allora, da Ghisi, come si chiama? No, non è figlio da Ghisi, no, Ghisi, sono una manica di randaggi. Ah, Antonio, non si sa mai, magari prima sarei grattato un culo. E quindi meglio andare sul sicuro. Non si sa mai che se ne è grattato pure la parte centrale, ne ha attinnate. E Anto, magari cazzo se ne è cotto una rasciata al gnaus. Oh, ioia. Doppio rum. Capo? Oh. E dei, ha caricato? Io no, ho mangiato un'arancia e basta. Quello che stavo dicendo, che sono in coma. Cava. Stavo dicendo, Antonio, che stasera ho provato quelle, come ti si dice, di che papà. Non è più giurato Giuseppe. No, negativo. Ho sentito che ha parlato, ma sono un po' offuscato. Detto che stasera ho provato quel cavolo di kebab, o come cavolo si chiama. Ketchup. No, kebab. È una carne particolare. Di dove è Giuseppe? Non lo so, dice chi la fa in coso, chi la fa in India, che a gara fa di che ho gatto di randaggi, che mi so, mamma mia. comunque è buona, ce l'abbiamo assaggiata ed è buona. Andate da Roberto in via Corsica, con il via Vendolo. Via Napoli, Roberto. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Qui, ciao Lucchetto, è tanto. Qua siamo, c'è un po' di mal di gola, ma siamo fregato stasera. Era città dal caldo, al freddo, ma ha fulminato. Siamo noi a Roberto. Ma fulminato piano. Oh, Luca. E mal di gola, sì, porco Giuda, non ci volevo, va. Ciao Luca, salutoni. Ciao Bucu. Tutto bene, sì. Insomma, tutto bene quando va bene, quando va male. Va bene, tutto bene per il momento, grazie a Dio. Tutto bella. Tutto bella, tutto bella. Era così, tutto bella, Ritiegi, Chiara, Monti? Monti non Chiara, assolutamente. Oh, già per la sera lo diceva, era così, tutto bella, Ritiegi, Chiara, Monti? Appunto. Vabbè, mi sto ascoltando, spero che mi salga la febbre, sono un casotto. Cioè, talmente caldo, vabbè, già tutte le persone che c'erano dentro, sul mercato era allucinante, era il mondo, comprando. In più, i climatizzatori accesi, peggio di, capito, peggio di guardare come ti possono... Ah, ollo. Via Giuseppe. E ma com'è dice che per crisi? Se non c'era stata crisi, capo, c'erano fatti due di mondi comprando. Cesso. Ma io ti posso dire una cosa, lì, guarda, non ti comballe, perché si presume che lì almeno l'80% sono paesani, non è niente di nobile. Sì, su quello sì, già l'ho notato anch'io, però la crisi c'è per tutti mio, Luca. Se tu noti l'80% delle persone che viene a Sassari a lavorare la mattina è dell'Interland, quindi... Possiamo noi che compriamo. Sì, siamo anche noi, quello sì, però l'80% sono paesani, perché quando stanno lì si parlano, no? Parlano in sardo. Ve ne poca, no? Noi non abbiamo, ne abbiamo pochi, quei pochi che abbiamo ci dobbiamo giustare bene, se no rimaniamo anche senza. Poi ripeto, quest'euro ha rovinato tutto, qua, secondo me ha rovinato tutto, è uno schifo proprio, con parole. Ma te lo lascia la lira, aspetta un attimino, aspetta, sto un po' abbassato, ecco qua. E invece no, non ho fatto proprio quello che hanno voluto loro, e vabbè, pazienza, tanto la cosa che costava 2000 lire, Giuseppe, adesso costa 5 o 8 euro. E si conferma lui, perché il potere d'acquisto, come potere d'acquisto non ne abbiamo, perché è raddoppiato tutto in favore loro, quindi noi lo stipendio che abbiamo è questo, ed ecco perché non si arriva più a fine mese, perché non abbiamo più potere d'acquisto, perché se le mille lire erano veramente 50 centesimi, mi hai capito? Allora il discorso era diverso, al posto di pagare un euro la cosa l'avevamo dovuta pagare 50 centesimi, però già facendotela pagare un euro tu arrivi allo stipendio che prendi, arrivi a prendere 1200 euro di stipendio, ok, però col discorso di fare il discorso che hanno fatto loro, tutto un euro al posto di pari a 50 centesimi come le vecchie mille lire, tu al posto di avere 1200 euro arrivi al punto che trovi in tasca tua di effettivi 600 euro pagando a un euro al posto di pagare ai 50 centesimi, perché te l'hanno dimezzato già di per sé in tasca. Ecco perché c'è il malumore, ecco perché non c'è più, non stanno più girando soldi, ecco perché non c'è potere d'acquisto, perché a noi ci hanno dimezzato lo stipendio in tasca. Ma infatti è quello, l'ho rovinato tutto, Giuseppe, l'ho rovinato tutto, è una cosa allucinante qua, è una cosa allucinante. E sono più di conto, tu vai a comprare un giubbotto e dici ho pagato 40 euro o 50 euro, Ma se fai i conti, sono 100.000 lire. Sono 100.000 lire, capito? Ma tu la pagavi 50.000 lire. Vabbè, diciamo che bene o male siamo, come si dice, ci siamo abituati. E vabbè, rimaniamo così. A me qualche lira mi è avanzata, sono pochi, saranno secondo me 5 euro, ma entrano anche i biglietti. Lo so Luca, lo so, noi ci siamo abituati, però purtroppo non va bene. Non va bene perché, come hai detto tu giustamente, con la lira, se era mille lire pagavi, adesso invece paghi un euro. Ma un euro non sono mille lire, mi hai capito? Sì, infatti, e caffè quanto costava? Quanto costava? 800 lire il caffè, solo mille lire, adesso costa un euro. Ma secondo me lo paghi anche di più, 1,20 euro. Ecco bravo, e questo è l'esempio più semplice che può fare una persona. Quanti caffetti dovevano dare con un euro? Quanti? Con un euro? Due. Bravo, e a malapena te ne danno uno, perché mi pare di aver sentito di gente che ha pagato un caffè anche 1,20 euro mio. Dove sei arrivato? Ehi, vabbè, comunque, tutta la fregatura, Giuseppe, dai. È tutta la fregatura, tutto mangia, capito? Vabbè, lasciamo, guarda, non tocchiamo al tasto perché sono pure, mamma mia, vado in bestia veramente perché non ho parole. Gianni, minimo si ha bloccato perché era già l'inghidente la prima, Gianni, ma ti ho detto, mi sbaglio, piovendo sta. Ma piovendo, esci a vedere. Ma mi sono bloccato, caro. Sta piovendo un bel parecchio anche, sono male. Cazzo Luca, tu hai detto piovendo, cazzo che c'è il diluvio. Cavolo, qui sta piovendo un bel parecchio. Non sento nulla qua. E anch'io non sentivo niente con i vetricamera nelle finestre, ma adesso che l'ho aperta, mi zega. No, qua nulla. Vabbè, non fa niente. Io vi saluto che sto per abbioccarmi, vi auguro buonanotte. Esistiamo domani, dai. Per me è esecutivo, un saluto a tutti di nuovo. Ciao già, ci sentiamo presto, dai. Buon tutto, buon 144 e alle prossime. Avanti a chi tocca. No, mi fa chiudendo. Il doppio rum. Ciao già, buonanotte, buona giornata per domani, alla prossima, ciao. Sta piovendo e sembra avanti un altro. Poco. No, qua la seconda è nulla. Cos'è? Sembra un bullone da 13 il coso, la goccia. Allucinante, un bullone da 13 sembra. Eia, io ho la finestra aperta qui e sto guardando dalle cose delle persiane. Cavolo, è bella, bella ambrosa proprio, mi la goccia. Ci confermo. Vabbè, ci sono questa ragazza, ma non è lì comunque. C'è questa ragazza su Facebook, Giuseppe, allucinante. È praticamente una foto un po' strana. Nel senso che se lei è molto carina, ci ha fatto una foto sul letto che ci sono le mutande, e col pizzo nero. Maria. Cava. Beh, già in gamba vestita quella, figurati in quella situazione. Ciao, ce la vedi di mano a bocca aperta. Tu non ce l'hai il computer. Cava. Vabbè, comunque, sono nei contatti io. Ci vede la foto, non ha privacy, capito? Però se non hai Facebook tu non lo puoi vedere. Vagava, commento su Facebook sbirciato. Ti ho nome e cognome, la cosa ci sono, non è che devi fare niente di male, ma per farti capire che poi ti rendi conto che ci sono foto da mettere. Ma io ne ho tante ragazze, se mi vedi, tu mi dai una specchiatina, quella che ci ho io, non puoi mettere foto del genere, ma come fai? Poi si lamentano che magari la offendono, magari gli fanno un complimento e poi lì si offende. Io per esempio a una ho fatto praticamente la sua foto, l'ho presa, ero, cioè diciamo preso, oddio, l'ho tagata, lui si dice tagata, l'ho presa da un punto e l'ho messa da un'altra parte. Mi ha fatto lo scandalo questa qua. Scusa, perché cazzo la pubblichi la foto, scusa? Ma lei pubblicare lì, io non l'avrei toccata. Mi ha fatto lo scandalo. Rimuovila, se non vedi che provvedo a farla rimuovere io. Allora, l'ho dovuta rimuovere. Beh, me lo posso immaginare, cazzo, boh. Ma c'è un po' di gente strana in giro comunque, lui. Dammi il nome di questa cosa. Giovanna Giovi. Ma Giovi con la Y? Sono normale, Giovi, Giovanna Giovi. Cava. Come è? Su Facebook, ci vuole in alto, dove c'è su cerca e te la dà. Sono di dov'è questa tipa? Casa di gioco, buh. Per carità. Però è buona, frito, Antonello Pomponio, qui bisogna agire immediatamente. Sì, meglio niente, guarda, posso dire. Se vedi meglio guarda in giro, meglio niente. Io la spesa che l'avrei fatta, all'uno spin però, è più barato in chili. La sisa poco fa sono andato, ho preso due cavolate, due. Che forse ho preso una di salame, un pacco di spianate, un di quel pane lungo, baguette, come si chiama? Baguette, boh, vabbè, già hai capito. Per un pacco di merendine 10 euro. Cava, se voglio consiglio da Giuseppe non prenderei affettato alla sisa perché ti si stellano vivo. Non so, io ho preso uno più meno costoso, Giuseppe. Ho preso quello, il salame sisa, no? Ho pagato 1,90 euro mi sembra letto. Eia, ascolta Giuseppe tu o Luca, se devi prendere salame in via Rosello, con quello che prendi alla sisa là te ne danno mezzo chilo. Ma la sera dove Giuseppe? E mura, in via Rosello. Ci andrò allora, purtroppo c'avevo fame, cosa fai? Era tutti i prezzi, 2,20, 2,50, 2,80, da quello ci saranno. Eia, ti sto dicendo, cazzo, sono una massa di ladri in Chivi. Sì, sono ladri proprio. Quindi vabbè, mi trai Giuseppe. No, ancora no, perché io il portatile ce l'ho nella scrivania nell'altra stanza. Adesso sono qui nel reparto radio. Ah, dopo va a guardarla. Giuseppe, comunque guarda. Veramente, come si dice, insomma, vedi un po' tu, cioè non è che devi fare chissà che cosa, però tu cosa puoi dire, cosa puoi pensare, non è, secondo me non è una foto da mettere, però qualcuno che ha fatto qualche scherzo, cava, poi quando ci troviamo in verticale ho l'ultimo anche il mio contatto della mail. Non c'è problema Giuseppe, no, io te lo posso anche qua, non ne sai a nascondere, perciò non è un problema per quello. Cava, così almeno se c'è qualche, per qualsiasi cosa stiamo in contatto. Non c'è problema, ma c'è anche il mio numero tu, io ce l'ho anche il tuo, se non so se l'avevo memorizzato nel telefono oppure nella scheda, non mi ricordo, ma non avere anche il tuo numero. E si conferma, però mi pare che stia tuonando, sono le orecchie mie. Qua si conferma, mi sono convegliato un raggio e occhi. Allora cazzo mi ha fatto la fotografia anche a me. Va. Mi sa che è arrivato il momento di staccare allora ragazzi. Ma io non sento niente, c'ho le finestre, doppio vetro, capito, non sento niente. Perché con questi lampi non è che si allegra la cosa. Lampi non ne ho qua ancora, solo tu lì. Beh, Bomboli. Dimmi. Antonio ha visto un lampone. Papà. Io ancora non ho visto niente, quando vedo qua, io stacco tutto se abbia il culo. Eia, io tra un po' mi stacco perché qua io lo vedo dalle cose. le finestre, i bagliori, anche se dicono che qui c'è la chiesa, che è vicino al parafulmine, tutte quelle cose lì, non mi fido lo stesso. E comunque non è niente da. Urca. Puglia. E quindi ti sei innamorato, ti sei? No, sei innamorato, no. No, è molto carina questa ragazza, desiderevole, molto, molto desiderevole, proprio fatta bene. C'è lei che veramente lei è una favola, dai. Sì, oia, la prima che vedi ti innamori a tutti i bimbi, prima mia che la vedi, poi bisogna che ti innamori, il discorso è diverso. Quando parla, dice tutto, sei tranquillo. Vabbè, gli ho fatto un complimento, non è che me la devo guiuvare, no, poi non lo so, aspetta, è molto carina, messa così, non mi fa parlare, non posso, c'è il bambino Giuseppe lì in casa, ma c'è anche la moglie che ascolta, dai, fammi stare buono. Non so se è buono, che c'entra quella, scusami, prima di essere, cioè, di buttarti così, è meglio incontro di tutto, poi ci vedrà. C'è solo che di meglio, guarda, se tu frequenti il centro storico, forse è meglio uno di quelli del centro storico, che è meglio fidarsi, che vuole con la computer, che non ti fidi, a tutti dimmi. D'accordo con te, sono d'accordo con te. Ah, ecco, allora. E vabbè, comunque, aspetta un attimo qua, blocco, ok. Se no qua se ne va tutto a farsi benedire, ok. Sono d'accordo con te, ma mica a tutti che piace. Ma se quello che la vede la prende per poco di buono, capito? E così. Vaffan no, quella mal di gola. Prenditi un bel bicchiere di latte caldo, Luca, poi prima di coricarti. Vedrai domattina, poi già ti svegli un tantino più tranquillo. E volevo dire, Antonello Bonponio, ebbene, novità ne abbiamo. L'unica cosa posso dire io, con Luca, lascia perdere il computer, lascia perdere le foto, lascia perdere quello che è. Meglio frequentare una persona di persona che ha computer per 2 anni, te lo dico io, ci frequentare sempre tutti i giorni e basta, perché se sbagli poco, tanto quello ti trovi io, meglio una sola, te lo dico io, ma una sola fottemi, tutto lì, io ci sono bruciato una mia ragazza. Perché gli altri, non so se frequentati io, al computer dopo 6 mesi si sposano, dopo non si sposano e poi mi trovi lì dopo 2 anni, ho sbagliato perché il computer è stato quello, il computer è stato quell'altro, perché? Il computer è quello che è, purtroppo, è una cosa che c'è, è come un baracchino. Non sai che trovi, la verità, perché l'ho permesso a farlo. La cosa è vero. Ma che foto c'hai? E me? Io ho il pitbull. Capo, non lo ricordavo più. Aspetta Giuseppe, ma cioè, sei tra gli amici di Antonio anche? Eia, eia. Aspetta, ti mando la vicina, ti cerco tramite Antonio, aspetta. Allora. Antonio, aspetta, Antonio, io ho tanti Antonio, eccolo qua, Antonio, aspetti, cerco. Cava, Antonio Bonponio. Dimmi, aspetta, sto dicendo ancora, dimmi. Ebbene, novità ne abbiamo, qualche apparuccio, c'è niente nell'aria. La novità ancora va, ma fa troppo, penso di sì. Come se facevo un bel giro di cose di una bantica a poco prezzo, in modo da comprarla, a noi ci divertiamo un pochettino, la utilizziamo. Tipo 40 canali, io ti posso dire 23, microfoni a tavolo, quelli che sono a poco prezzo. a sinistra facciamo un micro giro, così almeno compriamo qualcosa di buono che utilizziamo. Aspetta, Giuseppe, ma il tuo cognome con la G inizia? Positivo, positivo. Guarda, sono quattro lettere, Luca. Sì, tu dai, andare. Stavo andando l'amicizia. La privacy anche tu, come ce l'ho io, come ce l'hanno tutti, non tutti, dai. Quindi ti fai un po'. Vedi un po' le. Qualche foto già la vedi, diciamo, dai. Dei contatti che ho io. Uno scandalo, uno scandalo. Cava cava, beh, l'importante è essere presenti. Io faccio il telefonino 3 e faccio tutto lì, così mi diverto. Aone, guarda se riesci a procurarmi un bel alimentatore. Ti prendo da quale? Guarda, no, almeno da 30. Da 30. Chiedo, ma non c'è problema. Eia, grazie, perché io qua ne ho due, però devo riuscire a risolverla questa situazione. Cazzo gli arampo. L'ho sentita anche adesso. Fogno. A chi è avanti? Guarda adesso come arrivo. Ti sento chi è? Esio. Yeah, chi sei? Chi sono? Papà Natale, certo, ma oggi pubblico, ma lo riconosci, no? Santiago 5 adesso, molto più di prima. Lascia tutto, non vado nulla, lascia tutto così, non vado niente. Lascia lì come si deve, almeno. Beh, lascia tutto così, tanto domani lo facciamo meglio. Ok, adesso dite almeno. La vita è se ti sento come si deve. La vita si dite, come lo senti tu Giuseppe? Ma io lo sento bene, bene, bene adesso. Ho fatto quel lavoro con il fil di ferro, gliel'ho legato un po' adesso. Prego 5 si è messo. Perfetto, la bomba, salvo una bomba. Santiago 5 dovesse essere Santiago 7-8 con l'apparecchio, con collaborante, perché quello che ho io adesso sono di cose, di tutto, quindi arrivi molto più forte. Vabbè, dobbiamo fare quel lavoro là, lì, là. Non c'è poco da sbagliare, là. Arrivi cosa, quanto mi vedi? Quanto Antonio arrivi di tuo insegnare? Luca! Cazzo! Nulla, una buccia di gioco, no? Signori, riprendo io un attimo. Sì. Cava cava, dai, io riprendo per dirvi che sto chiudendo, che qui stanno arrivando certe smattinate di tensione, che qualcosa mimì, eccone un altro, qualcosa di bello, dai. Ci sentiamo presto, un saluto circolare a tutti, Giuseppe Guerrieri. Lo sento anch'io in frequenza. Vabbè, dai, chiudo io anch'io, buonanotte a tutti, cappa! Pappa, ciao Antonello, ciao Giuseppe, ciao Antonio, buonanotte, buona giornata per domani. Io stacco l'intenna, buonanotte a tutti, ciao. Anch'io. Ma boom! Io invece appena non stacco. Poi io sono più a rischio di voi, per entrare sul tetto, io come Giuseppe, idem. Stacco, a domani, ciao, stacca come sta qua. Sta qua. Ecco qua, via. Ciao ciao. Luca. Sì. Beh. Faccia di brutta, Sto chiudendo, faccia di brutta, c'è di due, non tu dici. Faccia di brutta. Faccia di brutta. Beh, sto bene. Tu sto bene. Quella cosa la fanno il 6, il 7 gennaio fanno quella questione giù all'ufficio collocamento, lo sai. Quale? La gallatura. Mi hanno dato conferma stamattina gli amici miei dentro, hai capito? Sì, esistevo, tanti la devo fare la disoccupazione, speriamo bene. Vabbè dai. Alessio, ci sentiamo domani mattina noi, Ok, ti sento bene adesso. E ora? Ok. che domani mattina alle 11:30 a casa tua. E se non più speriamo. Beh, adesso ho migliorato, visto che ha migliorato qualcosa. Beh, che cazzo, se ha migliorato, vabbè, l'ho appoggiato, no, io l'ho tolta pure da quel tubo. Me. Ah, visto hai. Adesso è come si vede con l'antenna. Avevi di fronte adesso. Ti sento io, figurati. Vabbè, dai. Ok, dai, alle 11:30 a casa tua, dai, ok. D'accordo, che ero lì, alle 11, dai. Buonanotte. Sì, dai, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, Giuseppe. Ciao, bombolo, ciao a tutti quanti. Ciao, Luca, va bene, adesso sto fumando per niente, la verità. Dunque. Giammai. Esagerato. Sei in penna, il baracchino attaccato. Ma chi ce l'ha fatto per quello? E c'è lei, c'è due antenne, anche due, tu hai due antenne addirittura. Adesso vado un attimino, così a capiccolino che mi sta chiamando.